Da una settimana, ormai, la protesta contro il DDL Gelmini infiamma le scuole d'Italia. A Palermo, i primi segni del dissenso si sono manifestati all'università, in una escalation di incontri, dibattiti, manifestazioni e azioni dimostrative di vario tipo. Ma al dibattito sul decreto Gelmini hanno partecipato attivamente anche le scuole secondarie superiori della città. Il 22 ottobre, data la gravità della situazione, si sono riuniti gli stati generali della scuola al liceo scientifico Cannizzaro. Noi non siamo più d'accordo a questo governo di destra che ci sta soltanto manipolando con le sue leggi e con i suoi decreti. La riforma della Gelmini è una riforma che va prima di tutto contro la Costituzione, contro alcuni articoli della Costituzione e secondo perché sta cercando di privatizzare inizialmente l'università e noi ragazzi di quinto il prossimo anno non potremmo permetterci inizialmente le rette per iscriverci all'università. Seconda cosa, non ci saranno più quella piano offerta formativa che potrà garantirci un'informazione, un'istruzione adeguata per il futuro e per ovviamente un lavoro. Tra gli studenti intervenuti sembra essere unanime il dissenso ai provvedimenti di legge del governo. I ragazzi non pensano che i tagli alla scuola pubblica e la trasformazione delle università in fondazioni private possano migliorare il servizio scolastico. Io non sono d'accordo con questa riforma per varie cose, i tagli per esempio che vengono fatti alla scuola pubblica oppure la privatizzazione delle scuole che poi diventeranno delle aziende e non saranno più delle scuole, ma soprattutto contro il licenziamento di quelli che saranno tutti i professori, anche perché poi per quelli che sono per ora all'università e anche per noi che siamo al liceo, in un futuro lavorativo non ci saranno concorsi, ci saranno meno concorsi per entrare come professore. Quindi sono questi i punti principali contro i quali vado. Anche il blocco del turnover turba i giovani liceali. Con la drastica diminuzione delle nuove assunzioni, l'ultimo posto fisso scomparirà. E molti non potranno nemmeno sognare di fare l'insegnante. La partecipazione degli studenti universitari agli stati generali è stata consistente. Uno studente universitario di lettere e filosofia ha riassunto così il motivo per cui è importante essere vicini ai liceali in questo momento. Io ritengo che dal momento che la riforma attacca la formazione a tutti i suoi livelli, dalle facoltà sino alle elementari, è senza dubbio importantissimo che il movimento universitario non lasci dietro di sé quello studentesco. Il movimento degli studenti medi ha anch'esso bisogno di un supporto. Io sono qui per dare il mio contributo politico a questo movimento che è senza dubbio fortissimo e che è stupefacente che un movimento uscito da un deserto politico degli ultimi anni riesca a creare assemblee di questa portata.